Mamma, dove vai? Entro qui a fare scorta di bellezza. Piume? Non li conosco. Ma scusa, come pensi che mi prenda cura di noi e della nostra casa? Da Piume trovi anche tantissimi profumi e articoli di make-up. E conoscendoti, hai prezzi migliori. Esatto. Mamma, ma quante ne sai? Dal 24 luglio al 6 agosto, BioPoint shampoo professionale 400 ml a solo 4,99 euro. E tutto panno carta a due rotoli a solo 2,29 euro. Piume, coccole per te e la tua casa. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale, spazio-temporalmente dislocato, a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Ah, belli di casa, runtimeradio.it, siamo tornati ancora una volta, anche se con una settimana di ritardo, qui a Quando eravamo futuro. E questa è stata una settimana particolare per Runtime, una settimana piena di problemi tecnici che si sono protratti oggi fino all'orgasmo dei problemi tecnici, ossia la caduta definitiva del server radio, che è caduto il tempo sufficiente per non mandare Walter Sbano in onda, perché poi è tornato online anche in questo momento. Per tutti coloro che ci stanno ascoltando tramite i vecchi link di Spreaker, perché chiaramente noi per correre ai ripari abbiamo attivato un link Spreaker, sappiate che potete ascoltarci tranquillamente su runtimeradio.it con il nostro player tradizionale, perché è tutto tornato alla normalità, e vi suggerisco di farlo per due ragioni fondamentali. Uno, perché 192 kilobit è sicuramente sempre meglio di 128, e due, perché comunque quella è casa nostra ed è giusto che noi siamo lì. Quindi praticamente sembra tornare quasi piano piano tutto alla normalità. Nel frattempo noi stiamo correndo ai ripari con molta lentezza, tranquillamente cercando di trovare una soluzione alternativa, però queste sono cose che succedono quando si ha a che fare con dei servizi che si basano poi su dei software open source. Perché quando tu poi apri un ticket e dici: ragazzi, è successo un disastro, questo server funziona così così così, loro ti dicono: lo sappiamo, ma non dipende da noi, Azuracast che si è aggiornato e l'aggiornamento è di merda. Grazie per rubarmi 9 euro al mese, però vabbè, sono pochi, dai, ci possiamo anche stare. Carlo Sant'Agostino, buonasera a tutti. Comunque guarda che questo problema non è solo dell'open source, capita anche con la roba seria, problema, esatto, sì, dell'informatica normale, tranquillo. No, è perché da quello che ho capito io, è che praticamente questo è Davide, sta, fa i cazzi suoi, se va in giro per casa, scarta le paradine. No. Tranquillo, tecnico. Non stiamo riuscendo a registrare, caro capo Branco. Non ti preoccupare, sto registrando io, per tutti, quindi sti cazzi. Comunque dicevo che praticamente Azuracast, che è il software di gestione della regia remota sul web, è un software open source che a quanto pare si aggiorna in automatico, indipendentemente da chi ovviamente lo ospita nel suo server. E se l'aggiornamento ha qualche problema, qualche falla, e insomma te lo tieni così, perché insomma in teoria lo dici: ma noi lo facciamo perché è gratis, non dovete romper cazzo, però noi il servizio lo paghiamo. Comunque, detto questo, chi se ne frega. Davide Gatti. Sì, buonasera, mi ero microfonizzato e allora... Perché stavi andando in giro per casa a scartare patatine e via dicendo. Ma no, c'ho qua dei biscotti a quale le persone vengono ad attingere e mangiano, e io... Bene. Buonasera. Sentiamo anche delle voci sotto. Salutiamo le voci sotto anche. Sì, è mia moglie che vi saluta. Ah, okay. Che mangia biscotti. Che mangia biscotti e vi saluta, va bene. Dicevo che oltre ai problemi tecnici, elettronici, sistemistici, informatici, abbiamo anche problemi fisici, che abbiamo il nostro boss colpito da labbrite. Da labbro abnorbis, che è una malattia specifica che succede quando ti mozzichi il labbro e ha tentato di curare bevendosi una bottiglia di limoncello perché non so come andrà a finire. Guarda, è più difficile parlare con il labbro grosso che con una bottiglia di limoncello in corpo, da sicuro. E quando mia moglie è entrata a casa ha detto: oddio, cosa è successo? Sembrava praticamente un po' come Kirk nel il primo film di Abrams, quando aveva le mani grosse, insomma la stessa cosa più o meno. Roberto Tomaiuolo, eccolo, buonasera a tutti. Roberto Tomaiuolo, che ha le labbra normali per ora. Ah, meno male. Comunque, tra l'altro, noi qui seminiamo malati di Covid a tutto spiano, come sapete, su Runtime Radio. Questo, vabbè, purtroppo è il segno dei tempi. Questa è stata la scelta dello scontro frontale contro il Covid, quindi tutti prima o poi ci dobbiamo passare. Detto questo, invece, volevo dire un'altra cosa che me la sono scordata, però, mentre dicevo questa storia. Mentre tu ci pensi, io dico un'altra cosa. Voi state sentendo Roberto con sempre la solita voce, ma noi che lo vediamo sembra che sia un'altra persona che stia parlando, perché si è rigenerato, è diventato un 20 anni in meno, ha fatto un redesign del look e noi lo vediamo e sembra un'altra persona. Sì, è l'intelligenza artificiale quella, comunque. Esatto, dici? Fake. però come Putin in Ciao 2021. Esatto. Bene. Ricordiamo la puntata che è disponibile, tra l'altro, sui nostri canali Spreaker. Cercate Runtime Radio su Spreaker e troverete ovviamente tutti i nostri podcast, e lì trovate anche ovviamente Everything, nel quale ovviamente c'è l'ultima puntata, Ciao 2021, con Michela, Puccio, Carlo e anche Luca Casciola, che è venuto per un po' di tempo. Prego, Davide. Sì, stavo dicendo che siccome poi alla fine non ci ascolta mai nessuno, diciamolo subito all'inizio. Prima parlavi che Azzurra Cast, tutta questa roba qua, 9 euro al mese, che non sono neanche tanti, però noi ricordiamo sempre che andando su runtimeradio.it/ anche io potete darci sempre questo supporto per migliorare. Quindi andate su runtimeradio.it, cercate il pulsante anche io, che è sopra in alto nel menu, e lì potete fare una donazione, una tantum su PayPal, oppure ricorrente su Patreon, se volete, se ritenete insomma questo sia il caso. Bene, io penso che non abbiamo mai fatto un preambolo così lungo. Tra l'altro, diciamo anche che ho dimenticato una cosa da dire, quindi non la dirò, quindi sti cazzi, e andiamo avanti così. Quindi insomma siamo nuovamente attivi su rantameredio.it, lo ribadisco, se volete ci potete ascoltare da lì. Voglio salutare invece e ringraziare anche, che già da oggi pomeriggio, che dà feedback con grande emozione, Gianluca Mattei, che giustamente ha subito su Facebook ha dato un feedback positivo alla notizia di questa puntata, perché chiaramente è una puntata che probabilmente piacerà, insomma, si capisce un po' dal titolo, anche se c'è stato un dibattito su quale doveva essere il titolo, ma chiaramente comando io e sono io quello che decido com'è il titolo. Però la puntata è di Davide Gatti, quindi sta a Davide Gatti un po' introdurci quello che è ovviamente il tema. Sì, il tema è già anticipato largamente dalla tua presentazione, il titolo della puntata, dove appunto cercheremo di spiegare un po' come negli anni, e sempre nei nostri anni di cui parliamo, del 70-80, è cambiato il modo con il quale ascoltiamo la musica. Abbiamo ascoltato la musica, ascoltiamo la musica, e come erano i tempi, come erano quei tempi, appunto, come funzionava questa cosa. Adesso tu l'avevi descritto in un modo molto più bello, ma non trovo dove era la tua bella scritta, che mi piaceva tantissimo come l'avevi descritto tu. Vabbè, basta andare su Runtime Radio, il canale. Un'altra delle grandi rivoluzioni di quel periodo di transizione culturale e sociale che ha rappresentato il ventennio anni 70 e 80. Non mi veniva culturale e sociale. È il modo di usufruire e condividere la musica, che questa è la cosa importante. Non è tanto il fatto in cui usufruivamo, ma è cambiato anche il modo in cui la condividevamo, la musica, no? Esattamente, che è la parte fondamentale di tutto questo processo che ci fu in quegli anni, ecco, dove ci furono dei grossi cambiamenti, che poi andremo adesso pian piano a raccontare. Io come sempre parto da un racconto veloce nel quale poi dopo ognuno di noi farà qualche commento. Ci inseriamo, esatto, a gamba tesa anche. Esatto, e partirei subito con la lettura, qui parliamo proprio di lettura. Dicevo, dunque, oggi per ascoltare la musica siamo abituati a cercarla su YouTube, oppure i più musicofoni non mi viene. E non ti verrà, quindi è inutile provare. Ma chi è che aveva la labrite oggi? Non ho capito, Davide. No, non c'ho la labrite, però certe parole, boh, non lo so. Vabbè, comunque, i più specialisti, i più bravi, i più appassionati utilizzano mezzi sempre più evoluti e più favolosi, tipo Spotify, con librerie infinite di brani, oppure c'è chi semplicemente chiede ad Alexa fammi sentire un brano di Davide Gatti. Chissà se qualche Alex è partito intanto. Beh, no, a me non è possibile che sto con le cuffie, giustamente, essendo in radio. Però qualcuno magari. E va bene, il tutto magari attraverso degli auricolari wireless o mediante dispositivi che nel mentre ascoltiamo la musica ci consente di chattare, inviare dei selfie agli amici, oltre che a telefonare e giocare. Quindi oggi la musica si fruisce in modo molto, molto diverso. Comunque, ma non è stato sempre così. E adesso qui c'è un piccolo passaggio ai tempi che furono, ma che sarà brevissimo. Fino alla fine del 1800 si poteva ascoltare la musica nelle proprie case attraverso i grammofoni, evoluzione del fonografo di Edison. E si ascoltava con quello che erano dei giradischi un po' ingombranti. Non erano elettronici, si caricava una molla e il suono veniva amplificato da una tromba meccanica. Poi arrivò la radio e quindi la televisione. La musica di quei tempi non era destinata ai giovani o ai ragazzi, ma era vista come una sorta di concerto privato nel proprio salotto. Furono gli anni 60 che fecero sviluppare il mercato, entrando di prepotenza nelle orecchie delle generazioni più giovani. Da lì in poi la fruizione della musica ebbe evoluzioni continue. Nei locali pubblici c'erano i jukebox, una sorta di grandi giradischi automatici che una volta inseriti una moneta ci permettevano di poter selezionare tra un elenco del brano più in voga del momento. In questo modo la musica si pagava un po' a turno e ognuno suonava un brano per tutti e l'ascolto si faceva spesso in gruppo, in ambienti tipo bar, ristoranti, locali per ricreazione. E quindi qua già vediamo che la musica fondamentalmente era una cosa che nasceva per essere condivisa, dove tutti, insomma, quando c'era della musica da sentire o quando eravamo in casa si ascoltava tutti assieme vicino alla radio o all'apparecchio che avevamo, o quando poi è diventata una cosa un po' più diffusa e cominciavano appunto ad esserci questi jukebox, tutte queste cose, la musica comunque si ascoltava sempre in condivisione, in modo molto sociale. E voi vi ricordate ovviamente i jukebox, no? Ma come non ce li ricordiamo? Ci ricordiamo anche quei posti pieni di fumo con il ragazzotto, quello un po' più scaciato, che nessuno gli diceva tanto perché stava paura di prendere le botte, che metteva sempre lo stesso brano anche quando aveva sfrantucato i coglioni a tutti gli altri, insomma, diciamo. Però insomma, questi sono limiti, casi limite, dove comunque il jukebox a me piaceva tantissimo. Quando ero bambino non capivo niente di musica, non conoscevo i brani, non li sapevo neanche leggere in quella lingua strana, però mi piaceva mettere la moneta e spingere i pulsanti, perché tu devi spingere il pulsante, la combinazione, no? A7, una cosa del genere, insomma. Sì, mi piaceva. Vedere il meccanismo del disco che veniva preso dal fregno, messo nel coso e via dicendo. Uguale a te proprio, cioè, io ero lì che affascinato dall'oggetto. Non erano tutti così visibili, alcuni erano un po' camuffati, c'erano invece molti, alcuni molto, dove si vedeva tutto il meccanismo attaccato a quelli lì proprio per vedere come funzionava. Carlo, poi la musica credo che sia una cosa che abbiamo fatto tutti, ma non solo io, vi do un'altra, che quando abbiamo fatto una mostra qualche anno fa, si chiamava Quelli che i videogiochi, era una mostra in cui ovviamente mettevamo in mostra arcade principalmente, ma qualcuno degli espositori portò anche uno di questi vecchi jukebox, di quelli proprio col braccino che cambiava il disco, dovevi vedere i ragazzini, i bambini eccetera, comunque ragazzi giovani attaccati a questo jukebox, continuare lì a mettere continuamente il disco e cambiare il disco solo per vedere proprio tutta l'azione del braccino che andava a prendere il disco, lo metteva. Quindi non è una cosa che diciamo è passata di moda. Se ci fossero ancora, probabilmente quando qualcuno li vede ancora sta ancora lì a guardarlo. Beh, certo, affascinato. È il paradigma quello che cambia. Noi lo guardavamo perché sembrava una tecnologia incredibile, una meccanica tecnologica super avanzata. Adesso i ragazzini lo guardano come una curiosità preistorica quasi, e capitava insomma dentro i jukebox che c'era questa. Forse no, però io. E invece sì, dai. Dai, dai. Diciamo che quel periodo con i jukebox cominciava ad essere di videobox. Ah, addirittura. Ah, quelli con i laser disc. Sì, stiamo parlando degli anni 82-83. Erano ancora piene di jukebox 82-83, avevo 12 anni. Ancora oggi comunque, ragazzi, io ci sono alcuni locali che, vabbè, adesso c'è un po' il revival, no? Quindi è anche normale, esatto. No? Però devo dire che secondo me il videobox non ha avuto lo stesso fascino che c'aveva. È durato poco. No, ma poi comunque ci sono certi jukebox, vabbè, il classicone che noi avevamo in spiaggia al mare, era il solito catrame quadratoso brutto. Però, sì, però non abbiamo detto che canzone è perché l'abbiamo messa, ragazzi. Niente, è una canzone normale. È sempre quella. È la canzone che oramai dalla prossima. Non è che abbiamo, magari abbiamo anche dei nuovi ascoltatori. Non so. Hai ragione, Davide. Spiega. È un brano che ha fatto un mio amico che si chiama casualmente come te. Di cui si vergogna, però. Allora, questo brano l'ha fatto Davide Gatti. Mio cugino ha detto che. Ma devi essere orgoglioso perché questa è stata scelta come sigla di DJ Television. Non mi ricordo che anno, 82. Che roba. Comunque, dicevo che c'è un certo no, Bangalo, scusa, però. Soprattutto in America, c'erano delle opere d'arte, c'è delle cose bellissime, fantastiche. Che qua in Italia non sono viste poco. Qua noi abbiamo sempre avuto le robe un po' per stile. Uno del 1980, quei cubi un po' tutti poco armonici. Invece ci sono dei jukeboxoni belli. Vabbè, ci sono quello classico che vedi un po' dappertutto, che è quello a come posso dire, a arco praticamente, no? Sì, tutto colorato. Tutto colorato, con i neon. Ecco, diciamo oggi è facile vedere delle repliche, perché chiaramente molti saranno sicuramente delle repliche. Di quello, perché comunque era sicuramente il più stiloso e difficilmente mi capita, raramente, di vedere posti, film, telefilm, roba del genere, dove comunque non c'è un ambiente dove prima o poi non sbuca fuori comunque quel jukebox, insomma. Esatto, che poi sarà anche simile, molto simile a quello di Fonzi. Sì, probabilmente, anche se quello di Fonzi non mi ricordo. Happy Days. Ma vi ricordate? Io non me lo ricordo. Ve lo ricordate voi a quanto andavano? 50 lire, 100 lire? Allora, sì, io mi ricordo che andavano a 200 lire, quelli che, di quando ero piccolo io, quindi sto parlando 1980, 81, 82. Probabilmente precedentemente andavano a 100 lire, 50 non credo. Probabilmente negli anni 60 forse saranno andati a 50 lire. Quando mi ricordo io negli anni 80 erano 200 lire, che poi sono diventate negli anni 90 le 500 lire. Quando erano 500 lire costavano troppo. Lì ero già fidanzato con quella che sarebbe poi diventata mia moglie. Mi ricordo che quando lei mi chiedeva di mettere un disco, io 500 lire. Carlo fidanzato, non ti ci vedo. Carlo fidanzato. Beh, sono sposato con due figli. No, prima di essere sposato, no, lui pensa fidanzato. Che tu sei passato direttamente da ragazzo singolo a padre, capito? Cioè, tutta la transizione in mezzo non è esistita. Non esiste. E non solo è difficile immaginarselo fidanzato, ma bisogna immaginarselo fidanzato e spilorcio, poi, ovviamente, perché quella che poi, credo che quello sia più facile. Dice la ragazza, gli diceva: oh caro, mettimi questa canzone. Lui, porca puttana, 500 lire. Esatto. Me lo ricordo benissimo. No, è perché i nerd hanno sempre, c'è sempre quella fascia di taccagnaggine, che non ti aspetti mai che si fidanzino così, no? I nerd sono nerd. Salutiamo in chat Enrico Fonso, Chiara Maravalle, ovviamente Gianluca Mattei, che abbiamo già salutato, Michela De Paola e anche Arturino Mazzei, che tra l'altro Gianluca dice che vorrebbe costruire una radio, un trasmettitore onde medie, così dice le cose che vuole ascoltare se le ascolta tramite le sue vecchie radio, perché lui a quanto pare ha una collezione incredibile di vecchie radio, vecchi Walkman, vecchi mangiadischi e via dicendo. Insomma, ci piacerebbe un giorno, magari lo andiamo a conoscere, ci mangiamo una bella pizza insieme. Arturino Mazzei gli dà un suggerimento di tirare i due fili fino a Radio Vaticano ed è fatta. E vabbè, questo è un po' quanto. No, io ho il suggerimento di ascoltare il podcast di Davide Gatti, anzi guardare il canale di Davide Gatti, perché sicuramente ci sarà una puntata dove spiega come costruire una radio AM/FM. A meno tre ce ne sono già di puntate, ecco, radio FM. Tra l'altro Enrico e Gianluca ci ricordano che questi jukebox erano i Wurlitzer, eh? Sì, esatto. Wurlitzer. Pensa, siamo stati ad Avezzano recentemente, se lo sapevamo tiravamo lungo, insomma. Vabbè, comunque, vai. Ma tanto ci devi tornare. E ci devo tornare, sì, esatto. Ma pure tu, no? Ci tornerai prima o poi. Anch'io. Vabbè, comunque, i jukebox, insomma, erano l'elemento di quello che poi alla fine è diventata la socialità della musica in qualche maniera, no? Era l'estensione tecnologica del fregno con la chitarra durante i falò, poi fondamentalmente. Esatto, bravo. Ecco, questa associazione non mi sarebbe mai venuta. Però vedi, sono qui per questo. Il fregno con la chitarra era prima dei jukebox e comunque dell'avanzamento della tecnologia, ecco. È vero, il fregno con la chitarra. Esatto, è che era quello che non cuccava mai. Ciao anche a Claudio. O stasera a Pienone, sì. Insomma. Sì, era quello. Mio fratello era il fregno con la chitarra, cuccava invece. Ah, cuccava, vabbè, no, di solito c'era il fregno con la chitarra che era quello che lui suonava. Tutti lì stava lì a suonare. E quando smetteva di suonare, oh, dai, continua. Chi è stato di voi un suonatore io non ho mai saputo suonare la chitarra, quindi io non ho mai saputo suonare niente quindi... esatto ma io un po' tutti quelli che si riguazzavano io un po' le tastiere, ma la tastiera portasse in spiaggia era complicato, insomma. Ma poi andiamo, ci sono altri ricordi su queste cose. Sì. Comunque vabbè, andando avanti più o meno tutti in casa. Scusate, però giustamente, ma Gianluca scrive: io mi ricordo quattro fregni con la chitarra, giustamente intonando insomma una famosa canzone. Sento poi il bello è che Roberto Tomaiolo si sta divertendo tantissimo questa sera. Tra un po' lui vorrebbe andare a letto. Ma è vivo? Non lo so, è vivo. Faccio fatica a riconoscerlo, allora sono un attimino sempre un po'. Intanto mi giro e dico: chi è quello? Aspetta. Ma io ho avuto meno esperienze di voi perché ricordo il jukebox, però ero abbastanza piccolo, diciamo che almeno nei posti che frequentavo io è scomparso abbastanza presto, comunque non era utilizzatissimo. Queste cose plebee, hai ragione. Queste cose plebee, esatto. E più che altro perché fu sostituito dai videogame e cose del genere. C'era, cioè me lo ricordo nel baretto dove andavo io, detto Tabacchino, è un mitico posto, però sì, ogni tanto qualcuno lo metteva, ma era più che altro per quelli un po' più grandi che andavano a giocare a biliardo, perché c'erano le due zone, la zona biliardo, alcol, fumo da una parte e la zona videogiochi dove di solito andavamo noi, per cui il jukebox vero e proprio lo abbiamo utilizzato, io non ricordo di aver mai messo una moneta in un jukebox, per esempio. Anche se l'oggetto è affascinante, cioè non c'è nulla da dire su questo. Si vede che lì nei peggiori bar di Caracas E io invece come strumento musicale ho speso una valanga di soldi, ho preso anche ben una lezione per il sassofono. Urca! La bellezza di una lezione, e l'avrò strimpellato quattro volte e da credo 20 anni ancora. Quello è l'effetto Fausto Papetti, giustamente. Esatto. Dice, dai, che se imparo finisce che anch'io vedo le donne nude sulle copertine, giustamente. Esatto. Candy Dulfer, Fausto Papetti. Che colpi di memoria che mi fai venire. Lo so. Le copertine di Fausto Papetti, soprattutto. Nessuno conosceva i dischi, ma le copertine le conoscevano tutti, insomma. Io conoscevo Castellina Pasi e Fausto Papetti, erano l'accoppiata in macchina di mio padre sempre. Castellina Pasi e Liscio. Poi mi dite, altro che Fausto Papetti comunque. Ma no, ma noi siamo del plebei, Fausto Papetti, i professionisti ascoltavano altro. Va bene, dai, andiamo avanti. Dicevo che poi, allora, come abbiamo detto, questa musica che si ascoltava attraverso il box, che Fausto Papetti mi sembra. No. Questa è My Way, anzi no, questa è Imagine, giustamente. Bam, bam, bam. Ah. Vabbè, sì. Vedete che c'è? Ce lo teniamo sotto Fausto Papetti, che ci farà compagnia questa sera. Vai, poi arriverà la SIAE prima o poi. Esatto. Prima o poi. Arriverà proprio lui esatto. Il signor SIAE. Esatto. Salve, signor Papetti, chissà se c'è ancora. Ma io penso sia morto. Adesso mi documento. Voi intanto continuate con questa disamina, che altrimenti finiamo a mezzanotte. Esatto. No, dicevo che andando avanti praticamente più o meno tutti in casa avevamo comunque il modo per ascoltare la musica, avevamo radio, giradischi, chi magari aveva anche un impianto stereo eccetera, però l'ambiente casalingo non era particolarmente adatto per l'ascolto Fausto Pavetti è morto a Sanremo nel 99. È stato un sassofonista italiano naturalizzato svizzero, cioè si è pure venduto. È andato a non pagare le tasse in Svizzera. Bravo. Vabbè, comunque è morto. Vabbè. Vedi che si muore anche da Svizzera. Ovviamente. Così mi hai demolito un mito. Vabbè. Comunque dicevo che avevamo comunque modo di poter ascoltare la musica anche a casa, in socialità o meno. Ma tipicamente se volevamo riunirci a casa per ascoltare la musica attraverso magari il giradischi, impianto che c'era in casa, in parecchie case, non tutti magari ce l'avevano, un giradischi sì, direi di sì. E quindi uno si metteva lì a ascoltare la musica, magari in salotto, tipicamente insieme ai suoi amici, e rompeva i maroni. E allora i genitori, più che i genitori, nacque l'esigenza in quel momento di creare qualcosa che potesse consentire a un po' tutti di poter ascoltare la musica un po' fuori dalle scatole, un po' in mobilità. E diciamo che così nacque, non ricordo il periodo, non me lo sono scritto nel mio documento, comunque si parla di anni 60, nacque questo magico apparecchio che è quello che è la nostra copertina dell'episodio, che è il famoso mangiadischi, che è il nostro oggetto che ha accompagnato per molti anni, tantissime generazioni anche direi, di sì, bambini, ragazzi, giovani, adulti, adolescenti, insomma tantissima gente che con questo oggetto ha cominciato a consentire di poter ascoltare la musica un po' dove ci pareva. E quindi vabbè, tutti noi credo abbiamo avuto un mangiadischi. Beh, sì. Immagino, no? Sì, quello io ce l'avevo rosso. Che poi voi eravate già in un periodo in cui ascoltavate già dei brani molto più nuovi, più recenti. Ecco, guarda, in chat Gianluca ha messo una foto. Io avevo quello più a sinistra, quello tondo, insomma, perché semitondo, che qui è di colore tipo senape, ma io credo che ce l'avevo rosso o giallo, non se non ricordo, devo dire la verità. Io avevo probabilmente più invece quello che è arrivato adesso, come immagine, che c'è blu, arancione, anche rosso. Questi, anche questi ci ho avuto, sì, anche questi, perché ce ne ho avuti diversi, devo dire la verità, anche questi, sì. Io sì, penso di aver avuto uno di quelli lì, colorato, rosso, immagino, e forse uno invece un po' quadratoso. Il primo che ho avuto l'aveva preso mio padre, per lui, insomma, per mia mamma e mio papà, che poi è passato a me comunque, ma è passato da morto, cioè è morto nelle mie mani. È arrivato vivo, ma è finito morto. Tutto quello che passava nelle mie mani veniva aperto e veniva ucciso. Forse ritornava funzionante, ma raramente. Di solito veniva aperto nel tentativo di invece capire come funzionava. Invece, adesso ti dico la prima cosa scabrosa della serata: io ci ascoltavo. Io ci ascoltavo le audio storie di Candy Candy. Madonna. Ce le ho, non ci posso credere, ma ce le ho. Incredibile. Questo mi emoziona. Le audio storie di Candy. Tocca digitalizzare tutta questa quasi roba. Tutte, ce le ho quasi tutte. Vedete, 45 già più avanti, sì. Ascoltavate già delle robe. Io invece ascoltavo le canzoni di Lucio Battisti, perché non c'erano ancora. C'era pochissimo, c'era. Beh, ma tu sei più vecchio di noi, cioè. Esatto, mi ricordo Furia, mi ricordo non i cartoni animati, mi ricordo più delle altre cose. Furia invece... è stato per me il primo disco che ho inserito in un mangiadischi. Forse in vita mia. Mi ha regalato il mangiadischi con Furia. Forse anche io, lo sai? Lo sai che forse anche io una cosa del genere mi dici o Zorro o Furia? Io proprio Furia, perché tant'è che la canzone che mi ricordo di più in assoluto, no? Furia, cavallo del West che beve solo caffè, fondamentalmente. Povero Mal che viene ricordato solo per questa canzone. Sì, tra l'altro abbiamo in archivio, mo una sera la tiro fuori, un'intervista che Luca Casciola ha fatto a Mal tipo una settimana prima che morisse. Cazzo, bene. Di buon auspicio. Esatto, se un giorno Luca Casciola vi dice vi posso intervistare, sapete che gli dovete dire no. Comunque, voi Mangiadischi l'avete usato come strumento per ascoltare la musica. Io invece, sì, appena, come vi dicevo, appena l'ho avuto per le mani, ero su, invece ci parlavi con gli alieni per capire come cacchio funzionava, come si mangiava il disco e cosa succedeva quando infilavi il disco. Certo. E praticamente il mio mangiadischi era aperto, non era chiuso, si vedeva dentro cosa mi funzionava. Beh, e si io... sentiva meglio, no? Non lo so, non credo. Sappiate che comunque penso che tra tutti gli apparecchi per ascoltare la musica probabilmente era quello più bassa fedeltà in assoluto. Dopo il grammofono c'era il mangiadischi, c'era la testiera piezoelettrica in fatta di letame. Beh, sì, ma pure gli altoparlanti penso che erano, facevano schifo. Sì, un altoparlantino, erano giocattolino praticamente, che però nonostante tutto, se lo vediamo in tantissimi film, lo vediamo in tantissime cose, in tantissime immagini, in tantissimi ricordi, però più o meno ce l'avevano tutti, sì, sì. Non solo bambini. Noi eravamo bambini, ma ce l'avevano anche gli adolescenti, mio fratello che era più grande e ce l'aveva e andava giù in giardino a ascoltare la musica con i suoi amici ed era più grande di me e veniva usato come, tra virgolette, la versione gratuita, se vogliamo, del jukebox, perché non bisognava mettere la moneta per ascoltare, ma bisognava mettere il disco. E poi ognuno portava i suoi dischi o ognuno aveva la sua libreria. Poi dopo c'era l'ascolto individuale a casa, ognuno ce l'aveva a casa sua, si ascoltava il suo disco fuori dalle balle, i genitori intanto si ascoltavano la loro musica o si guardavano la loro televisione, eccetera, e lui in un altro posto con questo mangiadischi ascoltava la musica, basta che non rompevamo i maroni. E niente, basta. Quindi diciamo... Questo apparecchietto comunque sia era un apparecchietto che consentiva l'ascolto e veniva sfruttato in moltissime occasioni per un ascolto sempre comunitario e anche poi un pochino individuale. Io credo che molti di noi l'abbiamo usato anche individualmente. Gianluca ci dice che per leggere il disco in verticale c'era una molla che spingeva la testina sul disco. Ha detto tutto, interessante. Sì. Vuol dire che il disco ogni volta che lo impiegavate dentro il mangiadischi gli toglievate praticamente un ore di vita. Mese di vita. Esatto. Comunque mi ero annotato sul mio documento, ma non credo che sia di così tanto interesse, i formati dei dischi, ma ci ricordiamo fondamentalmente i due formati che circolavano a quei tempi, che erano i 33 giri e i 45 giri. Il 45 giri era quello piccolino che giustamente era l'unico che funzionava, che si poteva infilare dentro i mangiadischi. Ovviamente. E conteneva un solo brano per lato e quindi si potevano ascoltare due brani girandolo e tipicamente il brano dietro al disco non se lo cagava quasi mai nessuno, si ascoltava sempre quello da una parte, il famoso lato B era sempre quel vabbè, quando ero piccolo che compravo i 45 giri in realtà li ascoltavi tutte e due, perché una volta che sì, l'avevi comprato sì, beh, certo. Io i lati B me li ricordo tutti, quelli che ascoltavo, e c'erano alcuni dischi dove il lato B era comunque la versione di ottima qualità. No, quella è stato dopo. Allora, la versione strumentale, cioè il lato B come schifezza di riserva, è venuto più negli anni 90. In realtà negli anni 70 e 80 il lato B era importante. O prendevi un disco dove tutti e due i lati erano importanti, per esempio i cartoni animati spesso ti vendevano il 45 giri, dove avevi un cartone animato sul lato A e un altro cartone animato sul lato B. Oppure la sigla del tutte destra due, anche, perché tante volte c'erano. Oppure nei cartoni animati quelli più famosi, la sigla iniziale e la sigla finale. Esatto. Però molto spesso nei cartoni animati meno famosi, quelli che andavano sulle TV private spesso, erano proprio i due lati. Le due sigle di due cartoni animati diversi che venivano venduti nello stesso disco, e invece alcuni cantanti nel lato B mettevano canzoni che comunque poi diventavano molte canzoni di cantanti famosi degli anni 80 avevano fatto dei lati B che poi avevano tanto successo quanto il lato A, mi ricordo Battisti o altri che avevano però delle canzoni praticamente visti sempre come i lati B, se però poi qualcuno ha avuto anche ovviamente no, poi negli anni 90 è peggiorata la situazione, il lato B è diventato proprio vabbè, io negli anni 90 penso che neanche li ascoltavo più i dischi, però in generale i 45 giri c'erano, cioè nel senso per abitudine c'era o un'altra canzone che io consideravo di pari importanza, oppure c'era un periodo in cui andava l'abitudine, se era il singolo la cosa importante, per esempio di una cantante, tipo Viola Valentino, mettiamo l'ipotesi, nel lato B o c'era un'altra canzone o c'era la stessa canzone in versione strumentale, che a me piaceva tantissimo perché così io ci potevo cantare. Mi ricordo che una volta mio padre tornò a casa con tipo un centinaio dei 45 giri di un tizio di cui io non ricordo il nome assolutamente, che era un suo assicurato che faceva il cantante ed era la versione dei Castelli Romani del cantante quello napoletano biondo là, come si chiamava, Nino D'Angelo. Ah. E l'unica cosa che mi ricordo che io mi ascoltavo sta canzone che faceva schifo, però non lo so perché, e faceva è la vita d'un poeta, un foglio in mano, un po' di verità, scrive storie sul suo amore, la sua canzone non finirà, così a oggi ha 30 anni di distanza mi ricordo sta cosa, anzi 30 anni anche più, mi ricordo sto ritornello di una canzone che non ascolterò mai più, non so come si intitola la canzone, sì, ma e sei intonato tu, è incredibile, sì. Tu sei intonato, sì. No, è il limoncello, dopo il limoncello, cioè, se io cantavo quel pezzettino lì esplodeva la radio, chiudevano Spreaker. Spreaker è pure runtimeradio.it in un colpo solo. Si formavano gli hard disk. No, veniva Papetti a bastonarlo col sassofono. Esatto. E comunque, tornando velocemente sui formati, ricordiamo i 33 giri e il 45 giri e il 33 giri. E il 78 pure. 78, non so chi di noi l'abbia fatto in tempo. Io ho scoperto il 78 perché avevo il giradischi vecchio della sorella di mia nonna. E lì c'era questo misterioso 78 giri, e poi andando a scartabellare tra i dischi di mio nonno trovai dei dischi di una misura strana, perché il 78 giri era una misura che stava a metà tra, come dimensione, era un po' più grande del 45 e un po' più piccolo del 33, esatto. Giri il 33 giri erano 12 pollici, lui era un 10 mentre il 45 era un 7 pollici. Gianluca dice che c'erano anche 16 giri, questi non ho mai sentito. C'erano anche 16 giri, ma quelli veramente non li ho mai visti. Che però i 33 giri, correggimi se sbaglio, Davide, erano 33 giri e mezzo in realtà. Sì, 33 giri e mezzo, però nessuno scriveva e mezzo. Che schifo scrivere in mezzo. 33 giri era tipicamente un album, e quindi c'erano più brani perché ci stava circa 30 minuti per lato, un'ora il disco durava. 45 giri durava 7 minuti. Sì, insomma, 4 canzoni 5, 6, per lato di solito. 5, 6 minuti, sì. E poi vabbè, più avanti negli anni 80, quando ci dicono 33 giri e un terzo. Vabbè, addirittura. Precisione. Vabbè. Dicevo, negli anni 80 nacque l'esigenza di avere una qualità migliore, e più i giri vanno veloci fondamentalmente più la qualità è elevata, però ha un maggiore consumo il disco, e allora fecero i maxi single, che erano grossi come 33 ma contenevano uno o due brani al massimo, e andavano a 45 in modo da avere una maggiore qualità, perché i 5 minuti, perché voi se vi ricordate negli anni 80 si cominciavano a cantare i brani dopo 3 minuti, sì, i primi 3 minuti erano introduzione. E sai perché? Tu lo sai perché lo difetti per fare i mixaggi, esatto, serviva per quello, per fare i mixaggi comodi ai disc jockey, esatto. Gli davi una bella intro così riuscivano a miscelare i due, esatto. E comunque i brani duravano 6-7 minuti, su 45 non ci stavano, allora hanno inventato questi maxi single, così avevano 3-4 brani, due ce ne potevano stare sul lato e il principale stava su un brano solo, dietro c'era il famoso brano strumentale per tappare il buco, e magari una versione che chiamavano dub, cioè una cagata, generalmente una cagata, era un brano, te schiacciavi i bottoni a caso del mixer e ti veniva fuori una roba fatta improvvisata. Dub, 16 giri si usava per il parlato perché la qualità non era sufficiente per la musica, però durava tantissimo, probabilmente durava un'ora per lato, e discorsi lunghi, sì, andava bene per chi se lo ricorda. Ci volevo arrivare forse dopo, ma ci arrivo anche adesso. I corsi di inglese o di lingue una volta erano su disco. Sì, sì, sì, è vero. Ma anche le favole, mi ricordo. Anche io. Come favole. No, voglia. C'erano questi troni giganteschi. Non canto io la intro, ma c'erano le famose favole che dicevano nel mondo ce n'è. Sì. Ce l'ho sulla punta della lingua, ma non me lo ricordo. No, amici, mi avete sbloccato, come si dice adesso, il ricordo delle favole del mangiadischi. Sì, esatto. I tre porcellini l'avrò ascoltato 8 milioni di volte. Ed erano rosa, vi ricordate che erano rosa? Io mi ricordo che erano rosa il disco, non il disco era nero, ma la copertinina. No, il disco era ricoperto di bacon solo. Sì. Quello dei tre porcellini, sì. E si poteva mangiare dopo che avevi finito, esatto. Quello mangi i dischi. Una cosa strana, ma perché i dischi, quelli, i flexi disc, quelli che mettiamo nelle riviste? Quello di cui te ne ho regalato uno della... No, ma non è flessibile. Quello era vinile blu, sì. No, erano a 33 giri quelli lì, ma erano a forma di 45. Secondo me ce n'erano di vario tipo, dipende da quanta roba ci volevi far stare io, sopra. Io tutti quelli che ho trovato, i software disc che mettevano nelle riviste, cioè i 45 giri fatti non di vinile, ma di quel materiale lì. Tu parli che c'hanno sul software? Sì, i programmi. Esatto, erano... perché probabilmente con 33 giri andava comunque, cioè si poteva... Eccolo lì il disco delle favole, scusate, è quello che hanno appena pubblicato adesso, che è rosa, sì. Ma non è rosa, è tutti rosa. Personaggi sono disegnati, è vero, era bianco con tutte cose rosa, che colpo di memoria anche questo. Sì, 33 perché probabilmente la banda passante era sufficiente per far andare per il computer, che tanto più di 2000, 3000 Hz o 4000 Hz non c'era bisogno, non andavano bene, però almeno durava molto di più, durava 10 minuti, al posto che 5 ci potevi far stare un gioco o due, perché sai che ci voleva 10 minuti per un gioco, a volte. Vabbè, però non ci fermiamo su troppo sui tecnicismi, ragazzi, insomma. Era solo per ricordarci che esistevano questi formati per chi non li ha vissuti, anche se in questo periodo particolare del nostro in realtà sta subendo un revival il vinile e lo trovate un po' da tutte le parti. Non si trovano però i 45, stanno facendo solo album. Vabbè, ha senso questa cosa, perché comunque è più facile che la gente oggi si sia comprata comunque una come si chiama? Un piatto, insomma, con più di 33 giri che, insomma, per 45 giri che oggi forse ha poco senso, anche se ci sono delle aziende che se tu gli mandi il materiale ti stampano sia su 45 giri che su 33 giri. E ci avevo fatto anche un pensierino che fa una cosa speciale, però poi in realtà in effetti il minutaggio contenibile all'interno di 33 giri, come ha detto giustamente Davide, più o meno è un'ora, insomma. Sì. Comunque, andando avanti, appunto, l'abbiamo già detto e l'avevamo anche già detto in un altro episodio di quando eravamo futuro, quando parlavamo dei negozi, delle botteghe, non solo l'ascolto della musica era una cosa che si faceva in compagnia, ma anche proprio il fatto che quando tu andavi in un negozio a comprare un disco, tu andavi a comprare un disco, lo compravi e tu compravi la musica, te la compravi e diventavi possessore della musica. Io ho comprato il disco, è mio, e io adesso ho comprato il disco, è mio questo brano, è mio questa musica. In realtà non lo è mai stata neanche di periodi, però e c'era questa sensazione di dire l'ho comprato, è mio e ci faccio quello che voglio e va bene. Però il bello era appunto andare in compagnia, sempre si andava in compagnia in questi negozi con dentro milioni di dischi di tutti i tipi, ordinati per autore, per quello che volete, e si andava lì tutti assieme a cercare qualcosa da comprare. Quindi c'era la bellezza di sapere che spendevi dei soldi per avere indietro qualcosa di che ti portavi a casa. E in più c'era anche la bellezza di andarlo a scegliere questo disco. A volte sapevi cosa andare a prendere perché sapevi che era uscito l'ultimo D o la favola o il cartone animato, quello lì, insomma tu andavi deciso, sapevi cosa prendere. Altre volte, mentre si era in giro a cazzeggiare, si entrava nel negozio di dischi, si guardavano, si spogliavano, si guardavano queste bellissime copertine, queste cose, e a volte si comprava dei dischi anche solo perché era bella la copertina, oppure lo ascoltavi perché lì te li potevi anche far ascoltare dal tizio, dal negoziante, dice può sentire questo, e lui lo metteva su, no? Un po' come poter ascoltare... Scusa. Belle cose oggi, queste generazioni non sono abituate a questo suono, però insomma se lo sentite bene, insomma lo scoppiettio. Non l'avevo sentito, della punta appoggiata sul, esatto, quando mettevi giù la puntina all'inizio, esatto, che era la polvere alla fine, giusto? Sì, più o meno, polvere, sì. Fondamentalmente era la polvere o qualche graffio, poteva anche esserci. E quindi niente, la bellezza di e quando di si essere... incantava il disco. Ah, giusto, vero. Quello è vero, il disco incantava. E c'erano quelle volte che si incantava strano e quelle volte che si incantava bene, nel senso che si incantava esattamente nella strofa giusta, andava avanti all'infinito. E si incantava perché un graffio faceva rientrare nella pista precedente la testina, perché era una spirale, esatto. E anziché essere a spirale faceva il cerchio, esatto. Praticamente, oppure quindi saltava quando per qualche strano motivo, sì, o c'era uno ci ha mangiato sopra, che ne so, una focaccia, sono cadute sopra delle briciole. Questo è un racconto assolutamente casuale, uno che ci ha mangiato una focaccia, chissà chi sarà stato. Voi non lo sapete, ma tra i problemi che abbiamo avuto nello streaming questa mattina durante Buongiorno un cazzo dalle 7 alle 8, io parlavo e stavo facendo tutti i discorsi importanti sulla popolazione, sulla densità demografica e via dicendo, e sotto ogni tanto partiva lo stream con quello che c'era sotto, c'era Davide che parlava di focacce, ah no, parlava di piadine, ecco, mo mi ricordo. Piadine, beh, comunque anche cazzo, mangiando una piadina su un giradischi mentre sta suonando un disco è molto facile che cadano delle briciole e il disco li salti e faccia un po' di casino. Vabbè, comunque il jukebox era socializzazione all'interno di determinati ambienti. Il giradischi era il nostro modo con il quale abbiamo scoperto probabilmente la musica, no? Perché comunque tramite lo stereo dei nostri genitori o il mangiadischi che potevamo avere a disposizione, noi abbiamo cominciato ad avere una certa autonomia nelle cose che ascoltavamo, diciamo così. Però poi sono state rivoluzioni che hanno proprio cambiato proprio il nostro modo vero di interagire anche con la musica. Sì, adesso non so dove vuoi puntare tu. Vai avanti, questo voglio dire, vai avanti. No, perché la focaccia. Tanto stai mangiando. Sì, esatto, un biscotto. Va bene, allora ti perdoniamo. Sì, diciamo che abbiamo parlato di dischi, abbiamo parlato di questa tecnologia che circolava, ovviamente, che era la più diffusa in quel momento. Adesso, sempre tornando poi dietro nel tempo, non stiamo facendo un progresso temporale vero e proprio, comunque esistevano anche altre tecnologie che non abbiamo menzionato e che non so quanto di voi ne abbiano mai fatto uso, però a un certo punto della vita sono esistiti anche quelli che erano i registratori a nastro, che sempre sono nati molto molto presto, negli anni 60, ma soprattutto negli studi di registrazione. Nelle nostre case sono arrivate, penso a metà degli anni 60 o giù di lì, con dei prodotti alla portata, cioè quindi dei prodotti molto piccoli ed economici. Chi di voi se li ricorderà sicuramente, i registratori della Geloso, dei piccoli registratori con delle piccole bobine che potevano consentirci di registrare la propria voce, di avere un microfono e registrare, di poter ascoltare quello che avevamo registrato. Io già la prima volta che mi capitò questo ero rimasto tipo abbagliato da sta roba. Si poteva registrare la musica che arrivava da una radio, si poteva registrare le cose e poterle riascoltare. Poi un po' tutti questi l'abbiamo cominciato ad avere, la qualità era quella che era, un disco si sentiva sicuramente molto meglio, e quindi questi registratori cominciarono anche loro a far parte un po' della nostra vita musicale, anche se più che musicale ci facevamo degli esperimenti, se vogliamo, a quei periodi, più che ascoltare la musica. Magari la musica su nastro è arrivata dopo e lo vedremo, però in pratica adesso siamo in questo periodo dove c'è questo oggetto magico che ci consentiva di registrare le cose. Dimmi un po', Davide, che ti ho fatto vedere quest'estate a San Savino. Quest'estate io ho la foto, ma non me la sono guardata prima di venire perché non mi ricordo la marca. Non era sicuramente un Geloso, mi sembrava tedesco il tuo. Che non lo so, però era una valigia, cioè era grosso quanto una valigia, e tu aprivi la valigia e dentro c'era praticamente questo registratore a bobine, quindi c'era praticamente le stesse pizze che utilizzavi ovviamente per la pellicola dei Super 8, insomma, no? Fondamentalmente. Sì, somigliavano a quelli. Sì, somigliavano molto, solo che dentro c'era un nastro magnetico e mi ricordo che a quello ci si collegava un microfono e gliene ho fatto vedere uno a Davide, uno che sta lì a San Savino da chissà quanto tempo, probabilmente non più funzionante, ma magari anche recuperabile, con dentro addirittura un nastro che chissà che cazzo ci sta registrato sopra. Cioè, adesso la nostra missione è svelare questo segreto. Insomma. Io penso che si parli di metafonia ormai. Lì sì, sì, sì, pure signor. Io geloso ce l'ho qua funzionante, se serve comunque. Adesso non lo so, perché geloso hanno vari formati, quello là è grosso, è un prodotto un po' più... No, come si dice, il nastro era standard, il nastro di registrazione. Dici? Sì, assolutamente. Beh, sicuramente le sue bobine, quelle grosse, se hai il geloso quello piccolo non ci entrano, perché quello là ha delle bobine. Il geloso piccolino, sì, c'ho le bobine quelle compatte. Esatto, quindi bisogna fare travasarle dentro quelle per poter provare a sentirlo. Comunque, vabbè, sì, io diciamo che essendo un po' più vecchio di voi, sicuramente l'ho visto, però vi ricordo sempre che mio padre era super mega appassionato di questa roba, per cui a casa mia non è arrivato il geloso, ma è arrivato il Revox direttamente, e quindi bobine ancora più grosse e fedeltà, alta fedeltà se vogliamo. E nonostante comunque ci fu questo registratore a bobine che circolava, era sempre un po' in secondo piano come ascolto musicale. Mio padre lo usava per registrare i dischi, ma tanto valeva ascoltare i dischi che ti registri i dischi sopra quel nastro, per poi ascoltare il nastro non ha uno scopo se non per farti al limite una compilation, che sarà invece una cosa che faremo un po' più avanti, che adesso ne parleremo tra breve. Comunque voi, registratore bobine, come li avete vissuti? Era un soprammobile o lo utilizzavate? No, io te l'ho detto, io mi ricordo questo registratore che ci avevamo, e mi ricordo che c'era questo microfono che era attaccato e ci si registravano cose, ma adesso se ti do di la verità non so minimamente che cosa ci registravamo, ma magari erano anche così, cose sceme o magari cose di famiglia. Esatto. Comunque, però io mi ricordo che questa cosa da allora me la sono sempre portata dietro, tant'è che io non ho mai avuto uno stereo che non avesse un buon microfono, fondamentalmente. E questa poi è una cosa che in qualche maniera si ricollega anche a tutt'oggi, no? Perché mi ricordo che quando avevo per esempio lo stereo, quello classico a casa, insomma Pioneer, quello a palazzetto fondamentalmente, con i vari blocchi, no? Quindi l'amplificatore, la piastra, la radio e poi il giradischi sopra, e mi ricordo questa cosa che c'avevo questo microfono, che era un bel microfono stereo della JVC, bello grosso, a forma di martello era, tra l'altro, era particolare come forma, di solito i microfoni sono a forma di gelato, insomma, no? E con questo qua io ci facevo le interviste, cioè tutti gli amici miei che venivano a casa io li intervistavo, io facevo l'intervista tipo alla Marzullo praticamente, no? Fondamentalmente, e ci facevo una sorta di compilation, costruivo delle trasmissioni su cassetta praticamente, quindi facevo un'introduzione, un outro, l'intervista, lo stacco musicale, insomma, cioè sta cosa... Quando mi si riaccendono questi ricordi mi fanno capire che io sta malattia ce l'ho sempre avuta. Sì, ma facevi questo quando ancora non c'erano le telecamere, poi arrivate le telecamere. Con le telecamere facevo la stessa cosa, perché io poi facevo i montaggi analogici, ma mi ricordo che anche con lo stereo, quello più la radio con il mangianastri, quella classica, no? Cioè nel senso quella piccoletta, no? Che tu utilizzavi e che dopo magari sicuramente dopo ne parleremo, che anche lì io, capito, quando c'erano, facevo comprare a mia madre delle cassette, io in quelle cassette ci raccontavo delle storie, cioè nel senso mi ricordo questa cosa che facevo sta specie di telenovele, no? Che poi finivano con i cazzotti, con le sparatorie, con le cose, e facevo pure gli effetti sonori. Ma veramente, cioè, sarebbe bello ritrovarli sti nastri, penso mi vergognerei come un babbuino in calore, insomma. Comunque, vabbè, sempre quel periodo comunque c'era la registrazione magnetica, ma comunque il mercato musicale era su vinile e nessuna casa discografica produceva qualcosa, sì, ma pochissima roba su nastro. Cioè, non è che andavi in negozio e trovavi i brani musicali su nastro, trovavi solo tipicamente delle opere sinfoniche. Mi ricordo mio padre che su nastro aveva fondamentalmente le opere sinfoniche. Era la cosa peggio da sentire sul nastro, perché comunque il nastro aveva una risoluzione audio inferiore a quella del... Diciamo che un Revox suonava bene, a dire la verità, perché andava anche a velocità elevata. il vantaggio unico del nastro era che non aveva il rumore del disco. Cioè il disco, quando tu ascolti un'opera che spesso ha dei momenti molto, è molto dinamico, no? Una musica sinfonica, si passa da momenti dove suona un piccolo strumentino, c'è molta dinamica. Esatto. Oppure suona tutta l'orchestra. Ecco, quando suona gli strumentini, sentire il suono che hai messo prima e tutti i gracchi del disco dà molto fastidio. Invece con nastro questo effetto fondamentalmente non c'è, c'è magari un po' di rumore tipo fruscio, ma non ci sono i gracchi, quindi la qualità è migliore. Comunque la qualità che poi veniva eliminato col Dolby, il famoso sistema Dolby Noise Reduction, è uscito comunque molto dopo rispetto ai primi Revox. Non avevano il Dolby, per esempio. I primi registratori a bobine erano, andavano anche abbastanza bene, secondo me la qualità non era così male. C'era un po' di rumore di fondo, però il rumore di fondo poi scomparve successivamente. Sì, comunque pure i nastri c'erano abbondanza di rumore. Scusa, io intanto volevo dire che c'è Gianluca, secondo me è un collezionista quasi a livello museale. Cioè io vedo la quantità di roba che tira fuori che è veramente impressionante. Cioè ragionaci fare sul faccio un museo con tutta sta roba. Esatto. Mentre che Andrea Trevisan, che salutiamo, che ci ha raggiunto, lui dice che lui a 8 anni usava il geloso per registrare drive-in perché era troppo piccolo ovviamente per stare sveglio, e quindi lui registrava mentre continuavano a guardarlo i suoi, e lui nel pomeriggio si riascoltava la puntata, insomma, così in audio. E lo scopo, vai in realtà. Poi vabbè, io l'avevo scritto anche nel mio documento ed siamo arrivati adesso, ma qua ne ha già parlato da mezz'ora. Se voi vi ricordate del famoso Stereo 8, questo formato che è stato un po' una meteora, è durato qualche anno, non tantissimissimo, è durato, però non ha avuto questo. Io me lo ricordo poco, devo dire, me lo ricordo, ma me lo ricordo poco. Questo sì. Ha avuto una grande popolarità, ma è durato veramente poco, è subito scemato perché comunque non era un prodotto c'erano i registratori che potevi registrarti tu, però fondamentalmente era solo una roba che potevi ascoltare comprando i brani, e non c'era, ha avuto la sua diffusione, era un prodotto che ha avuto il suo momento di vita. Comunque era un nastro speciale. Ecco, quello che è arrivato a destra come registratatore è un geloso, però non è un geloso, non si sa che marca è, assomiglia vagamente a quello che aveva, che ha Simone là. Sì, anche se una cosa con questi pulsantoni colorati qua io me la ricordo anche io, quindi evidentemente poi ce ne avrò avuti anche vari di questi cosi qua. Esatto. Comunque lo Stereo 8 fondamentalmente era un nastro speciale che aveva 8 tracce e consentiva di poter far ascoltare 4 brani stereo, spostando la testina di riproduzione. Cioè la testina stereo si posizionava in un posto fisicamente, prendeva le 2 tracce che c'erano, spostandosi di uno step in su prendeva altre 2 tracce, via via andare. Era un brano che era un nastro senza fine, quindi continuava a girare all'infinito, e tu schiacciando 4 pulsanti sull'apparecchio che avevi di ascolto potevi cambiare brano semplicemente schiacciando un pulsante che spostava la testina e potevi ascoltare questi 4 brani. Però insomma è stato formato così, che ha avuto il suo momento, che pochi ricordano, e che adesso è diventato un prodotto molto ricercato nell'ambito dei collezionisti, e come lo sarà sicuramente Gianluca, che ci ha già fatto vedere 3 o 4 o 5 apparecchi, mi sa, Stereo 8, tra cui anche tante cassette che si trovano ancora, se vai su eBay si trovano anche abbastanza a basso costo. Comunque dopo questo uscirono poi finalmente, a un certo punto uscirono le cassette invece nel formato che noi tutti conosciamo, che si chiamano musicassette, stereosette, non so come le chiamiamo, come le avete chiamate voi, comunque le cassette quelle classiche, le audiocassette eccetera, e anche queste in qualche modo hanno sì un pochino negli anni 80, qua siamo già negli anni 80 e negli anni 80 questa ha cominciato già a cambiare un pochino il metodo di ascolto della musica, perché con questo tipo di formato è diventato molto più facile registrare le cose, la qualità si era alzata notevolmente, il prodotto era compatto, facile da usare, e consentiva di realizzare delle compilation facilmente, e quindi un po', come dire, ha fatto perdere di interesse un po', come dire, il disco, che veniva magari sì comprato per poi trasferirlo sulla cassetta insieme a tanti altri brani, e poi il disco rimaneva a casa fino a che poi i brani si registravano anche dalla radio o ci si passava il disco, lo comprava uno dei nostri amici il disco, ce lo passavamo tutti, ce lo registravamo e poi il disco, quindi il mercato aveva cominciato ad avere un pochino, secondo me, con la nascita della cassetta e la diffusione degli apparecchi per la registrazione eccetera, ha cominciato un pochino a farli riflettere. E hanno però, Davide, posso dirti una cosa? Sì. Io ho avuto già negli anni 70, infatti non ho visto gli altri tipi di cose, mio padre portò a casa una piastra di registrazione con le normali cassette magnetiche. Adesso non mi ricordo precisamente l'anno, ma probabilmente il 77 o il 78. Sì, vediamo quando è nata, non me la ricordo. No, è nata molto prima. Sì, sì. Ed era, io personalmente avevo l'Harman Kardon HK1000, mi pare si chiamasse. È nata nel 62, pensavo che un po' dopo. Ed era, sì. A parte che era bellissimo, infatti temo che mia madre, come tante cose, come tutte le madri, probabilmente lo ha gettato, perché era una specie di opera d'arte, era una piastra di registrazione di quelle vecchie, con tutti i comandi e l'inserzione della cassetta sul lato superiore, che è assolutamente non ergonomico. Sì, ce l'ho presente. Perché non ci puoi lavorare. E aveva già due bande di equalizzazione per canale, mi ricordo. L'input per il microfono, sinistro o destra, e poi aveva un selettore che già potevi selezionare soprattutto sia in registrazione che in ascolto il tipo di cassetta, quindi normale o cromo, non c'era ancora il metal, perché quello invece è arrivato dopo, e c'era un tastone, solo un grosso tastone per registrare col Dolby, che era il Dolby B, che sì, ti toglieva il rumore, però ti troncava totalmente la musica, che faceva assolutamente... Sì, perché Dolby B era il Dolby NR, secondo me, in quel periodo. Sì. No, il reduction, esatto. Era un puro... Sì, perché levava il fruscio, ma toglieva tutti gli altri, praticamente diventava tutto molto, esatto, più cupo, fondamentalmente. Ce l'avevo pure, sì, io. Ce l'avevo anch'io. Sì. Io ho avuto la fortuna, insomma, almeno questa, di sperimentare da subito le cassette magnetiche, così le chiamavamo, e quindi avevo una collezione abbastanza importante di cassette. Però diciamo che eri fuori media, perché in quegli anni avere un prodotto del genere voleva dire che avevi anche un impianto per l'ascolto, era per pochi davvero. Comunque, in buona sostanza, a un certo punto sono arrivati quelli che io chiamo gli stereo da spalla, no? Quindi tutti quei piccoli stereo portatili con il mangianastri che venivano utilizzati. Questa è una cosa carina, perché chi c'aveva i soldi aveva questi stereo, no? Che c'avevano la maniglia e tutto, li portavi dietro, no? Con le casse, quella famosa, per capirci, quelli che tante volte si vedono nei film americani anni 80, no? Dove c'erano tutti sti negroni che andavano in giro con lo stereo sulla spalla, oppure la famosa scena di Star Trek dove Spock, esatto, poi alla fine noi magari noi, mentre che magari in America, come diceva Carlo, magari in una conversazione nostra, questi li utilizzavano magari i ragazzi di colore nel Bronx per strada e via dicendo, noi li utilizzavamo più al mare, no? Cioè, nel senso, era più una cosa da mare. Poi c'erano quelli più, esatto, piccoletti, dove c'era solo una cassa e c'era solo un mangianastri. E tra l'altro uno dei primi sistemi con la quali i ragazzi hanno cominciato a farsi le prime cassettine, per chi non c'aveva il mega stereo con i dischi che poi se li registrava sul nastro tramite ovviamente il collegamento interno dello stereo era quello di mettere due stereo uno vicino all'altro, no? Quindi il microfono di uno stereo vicino alla cassa dell'altro stereo, dentro la propria cameretta, sperando che non entrava nessuno a rompere il cazzo, perché poi sennò c'era la canzone, tipo, che ne so, una canzone carina che ti piaceva di Claudio Baglioni, e a un certo punto dietro sentiva pronta la cena, cioè cose del genere, insomma. Quindi, però era un modo, quello, per se no si registrava la radio. C'era questa, esatto, cosa che praticamente si sentiva l'ultima parola dello speaker, praticamente, che parlava ovviamente fino all'attacco della canzone, perché questa è una cosa che più o meno si è sempre fatto, e poi quindi si sentiva l'ultima la canzone di Claudio Baglioni, e partiva la canzone, no? E quindi c'erano queste cose molto artigianali, che però a noi non ci importava, a noi ci importava delle canzoni, no? E si facevano le prime compilation che tu davi alle ragazzine. Io mi ricordo, e qui poi voglio un giro vostro di ricordi. Il mio ricordo scabroso della serata è questo, no? Premetto, io quando c'avevo, insomma, quando ero molto giovane, avevo i capelli lunghi, fondamentalmente, e quando questi capelli erano bagnati, diventavano tipo ricciolini, praticamente, no? C'erano questi capelli lunghi che diventavano molto ricciolini. Un po' come Michael Jackson, per capirsi, insomma, no? Perché il capellino alla Michael Jackson. E poi quando uscivo dall'acqua li scuotevo e diventavano ancora più ricciolini, cioè nel senso erano... E mi ricordo che c'era questa ragazza che aveva questo stereo, era giugno ancora, era proprio i primissimi di giugno, ancora non era iniziata proprio la stagione, insomma era tipo credo la prima settimana di giugno, quindi il primo weekend di giugno. Di solito le scuole finivano intorno al 15 e tu dal 15 trasferivi nel tuo posto di vacanza, no? E c'era questa ragazza che stava lì, insomma, sul mare, e io e un amico mio la guardavamo, e lei stava, questa qua stava con sto stereo da sola. Poi un'immagine un po' triste, però sai, le ragazze adolescenti a una certa età, insomma, ce l'hanno sta cosa un po' malinconica di dove sta da sole, che il mondo fa schifo, tutti sono stronzi. E alla fine questa qua da lontano ci guardava e poi fa io lo so cosa volete da me, e noi dice che volevo da te, meglio che non te lo dico che volevo da te, no? E questa dice voi volete ascoltare il mio stereo, no, però va bene, cioè nel senso era comunque un modo per attaccare, no? Quindi siamo stati là un po', lei faceva sentire queste cassette che lei piacevano tanto, che erano insomma le solite cose che si ascoltavano le ragazzine. Poi a un certo punto sta ragazza mi prende per mano e corre verso il mare, no? Verso l'acqua, e entra dentro l'acqua e si mette praticamente seduta dentro l'acqua e mi guarda e fa ah, i capelli bellissimi, grazie, lo sai cosa sto facendo in questo momento? No, sto a piscià. Così, con sincerità, ecco, a posto, grazie, lo stereo non mi interessa più, arrivederci. Poteva essere un buon metodo per attrarre. Era carina, io dico, vedi qua succede qualcosa, insomma, no? Non sto pisciando, era un po' fuori di testa sta ragazzina, insomma, però ecco, no. Succedevano queste cose, incontri strani con persone strane, tipo un mio amico che aveva solo una cassetta di Red Dead Redemption e si sentiva soltanto quella, e quando c'era lui lo sapevi che, e quindi se tu mi chiedi se a me piace Mark Knopfler o roba del genere, io ti dico non è che non mi piace, è che lo detesto profondamente, cioè non per colpa sua o per la sua musica, però insomma dai, ce ne stavano delle situazioni che erano collegate all'interazione, che era bello perché comunque la musica, quindi lo stereo, che c'era lo stereo, diciamo comunque in qualche maniera era un modo che veicolava la possibilità di incontrarsi, no? Perché comunque era un motivo per rompere il ghiaccio, diciamo così, e questa è una cosa di cui io mi ricorderò sempre e che forse ho più nostalgia di quel tipo di periodo, proprio perché era collegata a quel tipo di socialità, insomma, questo è un po', a parte insomma la tizia, sì, che sì, poi si è messa a pisciare, giustamente. Ma, nel tuo caso è andata così. Nel mio caso, in altri casi secondo me è andata anche peggio. No, però diciamo che comunque la cassetta in sé, in quel periodo in cui un po' tutti potevamo armeggiarla, ci ha consentito di fare tante cose, insomma, di preparare le nostre compilation da regalare ai nostri amici, alle nostre amiche, e sono state usate anche come veicolo per attirare. Ti do questa cassetta dei brani con tutte le canzoni magari un po' così. Madonna Davide, ma sei te questo? Sono io, sì, con i capelli come i tuoi che raccontavi. Beh, no, circa. No, io sì, molti, molto più lunghi. Sì, farti quel pizzetto lì con Righello? No, da parrucchiere l'ha fatto, si chiamava Becco, me lo chiamava. Comunque sì, quello dietro alla domanda di qualcuno era un Macintosh, sia il pre che l'ampli. E sopra, ma non si vede in questa foto, c'era anche una Gamici 1000, che era sempre impianto di mio padre. E dietro di me ci sono delle casse AR10P greco. Così, do delle sigle così. A cazzo, certo. Sicuramente no. C'era anche l'SR494, no, giusto? No, non lo so. Comunque, no, scusa, Gianluca, so. Sa di che cosa sta parlando. Comunque, facciamo il salto nel futuro, dai. Facciamo il salto nel futuro. Quello che ha cambiato, secondo il mio punto di vista, ma credo secondo il punto di vista di tutti, ha cambiato quello che è stato il paradigma dell'ascolto della musica a livello globale. Siamo negli anni 80 e la Sony commercializza un prodotto che quando uscì non ebbe subito una popolarità immediata perché costava tantissimo, ma dopo poco ha cominciato a calare di costo, e uscì con il prodotto Walkman, che già il nostro amico Gianluca ci ha messo la bella foto. Sì. Proprio esattamente quello lì è il primo che abbiamo avuto tutti, qua, fondamentalmente. Che abbiamo tutti. E da lì cambiò un pochino quello che era il paradigma dell'ascolto. Si è passati da un ascolto che era fondamentalmente sempre collettivo, sociale, eccetera, a un ascolto più solitario, sì. Esatto, più individuale, più è ognuno c'aveva il suo. Questa secondo me è stata la vera trasformazione, perché tutti questi passaggi hanno rappresentato di per loro una rivoluzione importante, ma in questo caso è stato anche un cambio proprio di paradigma nel modo in cui appunto usufruiamo della musica, e sicuramente anche nel modo in cui interagivamo con la musica, che prima era un momento di condivisione, adesso diventa più un momento proprio intimo. Cioè la musica tu non l'ascolti più da uno strumento esterno, ma l'ascolti dentro di te, cioè nel senso è proprio un modo completamente diverso per isolarsi anche un po' dal mondo, e quello poi faceva parte anche della mentalità dell'adolescente. Questa cosa un po' l'amplificava, non poteva non avere successo uno strumento del genere, insomma, in un momento in cui ovviamente il ragazzino a 15 anni, 16 anni comunque è più legato al il mondo non mi vuole, il mondo fa schifo, io sono tutti brutti e cattivi e io cerco la tristezza dentro di me, no? E quindi insomma alla fine comunque c'è un po' questa fase, insomma, diciamo così, no? Sì, c'è. Diciamo che secondo me ci sono molti aspetti, c'è questo aspetto, c'è l'aspetto anche invece proprio quello di ascoltare in un modo diverso la musica, perché ascoltandola da un mangiadischi, ascoltandola da un registratore, da boombox, da quello che vuoi, la senti in un modo, anche con un certo tipo di qualità. Ascoltandola in cuffia diretta cambia anche proprio il modo con la senti, come la senti con una qualità, anche se sei in mezzo alla gente, se sei in metropolitana, se sei in bicicletta, se sei in giro, tu senti sempre la musica con qualità. Per cui ci sono sia il filone, quello di isolarsi, se vogliamo, o di insomma, fare un po' quello che dicevi tu, oppure anche proprio la qualità che non era. Secondo me la qualità era più un discorso per chi come te magari apprezzava l'aspetto tecnico. Secondo me l'ascolto da una cassa è un ascolto esterno, l'ascolto dal Walkman è un ascolto interno, cioè proprio un modo di vivere intimamente, no? Quello che stai, e quindi confrontarti anche con le tue emozioni, ci sta, no? Come tipo di discorso. Tra l'altro la cosa importante è un po', si è sempre fatto un gran chiasso sul fatto che Apple praticamente con l'uscita dell'iPad ha creato non solo, anzi forse più con l'iPod che ha costruito, cioè che alla fine tutti gli strumenti d'ascolto digitali MP3 si chiamano un iPod, no? Cioè nel senso aveva creato, ma in realtà sta cosa nasce prima da Sony, perché comunque tutti i lettori di audiocassette portatili tascabili alla fine erano tutti Walkman, cioè nel senso quindi tutti Walkman, anche se erano di altre marche, certo, ma è sempre stato così. Quando un prodotto diventa iconico e famoso in un determinato settore, esatto. Ma è successo in tantissimi settori anche del videogioco. Una volta dicevi giochi con l'Atari e quando intendevi console, poi hai detto giochi con Nintendo e adesso, no, poi si diceva giochi con la PlayStation, ma anche se avevi PlayStation, qualsiasi altra cosa dicevi PlayStation, esatto. Così mani. Come secondo me a suo tempo è stato anche un po' per Atari, secondo me questa cosa, sì infatti ho detto prima era Atari, è stato così per Atari, per Nintendo, per PlayStation. Nintendo, sì, esatto. Vabbè, dai, comunque forse PlayStation in maniera particolare aveva rappresentato l'immagine del videogioco domestico, no? Che, cioè, in un'epoca in cui dipende dall'epoca, sì, e dalla regione geografica, perché per esempio negli Stati Uniti le fotocopiatrici le hanno chiamate Xerox. Chiamano ancora oggi Xerox, quando ormai non. Sì, anche gli aspirapolvere invece li chiamano Hoover. Esatto, gli aspirapolvere li chiamano Hoover, quindi dipende molto anche dalla regione geografica. Oddio, Claudio ha fatto una battuta, non so se leggerla o se squalificarlo per sempre dalla chat, ma dice: adesso se giochi con l'Atari sei un furbetto delle imposte. Squalificato. Vabbè, cartellino giallo cartellino Gaillo esatto, Gaillo. Chi la capisce questa. Comunque vabbè, qui, a parte adesso che è cambiato il paradigma, ovviamente il mercato è quasi tutto orientato verso le cassette, quindi il mercato anche discografico e il vinile a questo punto comincia un po' a vacillare, perché tutti vogliono le cassette. Sì, il vinile continuava a esistere, però anche la discografia cominciava ad apparire anche sulle musicassette. Ormai quasi c'è stato un momento quasi parallelo dove tutto usciva su disco e su cassetta. Perché comunque i dispositivi a cassetta ormai c'erano, talmente popolari ce li avevano tutti, che poi c'erano anche le autoradio, ricordiamo, e poi c'erano le autoradio che ovviamente andavano non con i dischi. Ci sono state però anche le autoradio con i dischi, non so se avete notato, avevo postato delle foto. Sì, però immagino come saltavano quando andavano, sì, esatto. Cioè saltavano i CD audio, figurate i dischi. Comunque esistevano i mangiadischi o delle robe del genere per la macchina, anche sono esistite. Sentite, mi ricordate come si chiamavano quegli affaretti che erano le autoradio, quelle piccolette verdi colorate? Le Boxer. Che se bravo. Bravo. Sì, le Boxer. Bravo. Quella era. Che era una lampadina piccolina rossa o bravo, verde o gialla, così sono dei vari colori. Era una radiolina sì. FM sarà stata, dai. Sì, AM. Però era figo, perché quello ti dava proprio il senso di una cosa tecnologica, capito? Che stava lì e tu la infilavi e faceva figo, dai, era figo come strumento. Anche comunque, poi. Approfitto per un aneddoto curioso, perché la mia radio in auto c'ha ancora la M, no? E una sera tornando a casa ho detto, ma chissà se c'è ancora qualcosa sulla M. C'è la radio Runtime Radio. Pensando di non trovare assolutamente nulla, in realtà ho trovato decine di canali. Sono rimasto impressionato da quanti canali, quasi tutti stranieri, tranne i due Rai che continuano a esistere su M. Verso sera praticamente si sente ogni canale disponibile sulla M, si sente un francese, spagnolo, arabo, di tutte le lingue. Cioè la M io pensavo fosse morta, stramorta, è mortissima. Ecco il nostro amico che pubblica la foto, ovviamente della Vox, che avrà sicuramente. Eh beh, oh, questo proprio, c'è un museo veramente dentro casa. Ci credo, sì. Allora adesso gliela butto lì. Fammi vedere la radio Brion Vega, quella a cubi che si apre in due. No, e figurati se non ce l'ha. Esatto. Quella ce l'ho più persino io, figurati. Mettila. O le TV Brio Vega, quelle cubotti lì, no? Quelli c'è da dire che sono al MoMA di New York, sono esposte al MoMA come esatto. Esempio di design degli anni 60-70. Comunque ragazzi, esiste ancora l'emissione sulle M, per cui la M è modulazione di ampiezza. Sì. Eccola lì, vedete? Che era quella che supera le montagne, giusto? Supera le montagne, basta un po', insomma, sì. Più che montagne, in linea generale è un metodo di trasmissione per la quale si degrada, ma comunque tu lo ricevi. C'è anche la TV Brion Vega, eccola lì, TV e radio, ce le ha tutte. Ce le ha tutte. non gli manca niente. Allora, adesso, dopo, se ci viene in mente qualcos'altro, buttiamogliela lì che vediamo se ce la mette. Vogliamo vedere un autoradio. Buttiamola lì, vediamo così, se sputa fuori l'autoradio. E niente, quindi fondamentalmente cosa, siamo più o meno arrivati, non dico al termine, però diciamo, questo è stato uno dei grandi cambiamenti che ha cambiato per sempre l'ascolto della musica, perché poi sì, esisteva l'hi-fi, che poi però, come ho ricordato qual è il documento, non ricordo dove l'ho scritto, negli anni 80 ha cominciato a diffondersi molto l'hi-fi, ma l'hi-fi del tipo che tutti in casa volevano l'impianto stereo, e alla fine più che impianti hi-fi erano degli impianti che fuori erano hi-fi ma non erano per niente hi-fi, il vero hi-fi era un'altra cosa. Però poi tra gli anni 90 vedevano degli impianti che erano bellissimi, che sembravano amplificatore, preamplificatore eccetera, ma alla fine erano tutte delle quasi cinesate, insomma è stato un periodo così. E io volevo raccontare del periodo di duplicazione delle cassette, la compilation domestica. Vai, vai, io l'ho accennato prima, in effetti, poi magari non abbiamo... No, perché più che altro era il periodo in cui praticamente le cassette andavano per la maggiore e riuscivi anche a registrare le cassette, quasi tutti ormai avevano a casa l'impianto o quello che avevi raccontato tu prima, la torre, no? Oppure sì, comunque il registratore collegato a giradischi, quindi tu andavi a comprare l'LP. Poi sì, io mi ricordo che compravo gli LP, i miei LP sono nuovissimi, quelli che ho ancora adesso, perché andavano una volta, due massimo, perché sì, andavano sì, per essere messi sulla cassetta. Poi dopo, quando ti eri fatto la cassetta, fine, eri a posto. Cos'è? Parla cos'è? Londra. Trasmettiamo Radio Londra, alcuni messaggi speciali. Radio felice Londra, non è felice. D'altronde è cessata la pioggia. In ampiezza. La mia barba è bionda. In AM, questa è in AM. Non dà l'acqua. Sai che questo è un decorte. Giacomone esatto, bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo sempre, è rosso. Per ricordare insomma il fatto che l'aquila prima o poi forse tornerà anche Delenda Cartago, insomma chi lo sa. tornerà. Vabbè, comunque era per dire che in quel periodo io mi ricordo articoli di giornale, comunque discussioni eccetera, in cui si discuteva dicendo: ah, ormai il mercato del disco è morto, adesso tutti duplicano le cassette, insomma questa cosa qua, si perdono i soldi, la pirateria delle cassette eccetera eccetera, cioè facendo la tragedia come se fosse la fine, in realtà non era successo praticamente niente con le cassette da casa. Il peggio è stato quando è arrivato internet con Napster, gli MP3, le cassette, le cassette. Sì, se avevano paura allora, il peggio doveva solo venire, insomma. Esatto. No, all'epoca diciamo che loro penso si siano un po' difesi come potevano, cercando di produrre anche la musica su cassette, in modo che uno dice: beh, cosa te la duplica fare, ti vendo la cassetta che si sente meglio già registrata da me, primo. Sì. E poi comunque c'era ancora un mercato che era, cioè dalla radio si registrava, sì, volendo si registrava, ma sì, c'era sempre giochi che ci parlava sopra, giochi che rompeva le palle, sì, poi i brani duravano molto meno. Allora al limite succedeva che, come dicevo, capitava a me, io molti dei dischi che ho ascoltato non li ho comprati io, li ha comprati il mio amico. Sì, sì, ci si scambiava. E l'altro, io compravo dei dischi, cioè ce li scambiavamo, quindi al limite si vedeva un disco per 5 persone. Ecco. Vabbè, però comunque il disco lo compravi, cioè questo voglio dire, no? Sì, lo compravi, e in più la radio si ascoltava, tra l'altro, e quindi la radio era comunque un mezzo che serviva per pagare gli autori che facevano la musica, non ricevevano i soldi direttamente dalla vendita del disco, ma la radio comunque pagava. Poi dopo, chiaramente, successivamente la cosa, come sapremo, è cambiata, ed è cambiata ulteriormente arrivando, diciamo, verso la fine del nostro cammino, tra virgolette, dove non cambia molto il metodo sociale col quale ascoltavamo la musica, ma cambia solo la tecnologia. E negli anni 80 diciamo, si chiudono e passiamo già nei 90, quindi non è più un periodo che di nostro interesse per quello che è la trasmissione, però negli 80 già c'era, alla fine anni 80 sono nati e sono usciti i famosi CD, i compact disc, questo miracolo dell'elettronica, perché io all'epoca quando uscì CD sembrava quasi fantascienza, davvero fantascienza, vedere questo disco super luminescente, bellissimo, che si sentiva perfettamente, bello, con tutta la qualità. E poi vabbè, chiaramente c'era anche stato un pompaggio mediatico pauroso, no? Musica perfetta, senza rumore, eccetera, poi era così per davvero, E quello è stato un altro cambiamento che ha praticamente chiuso definitivamente nel giro di un po' di tempo, magari non nell'immediato, però dopo qualche anno vinile e cassette sono praticamente andate quasi pian piano in pensione abbastanza rapidamente. Vinile sì, quasi subito, le cassette un po' dopo, sì. Perché fino a quando non si è diffuso i CD registrabili, comunque tu copiavi il CD sulla cassetta. Esatto, i primi masterizzatori costavano uno sproposito. Quindi. Sì, stiamo parlando, i masterizzatori sono diffusi a partire dai primi anni 2000, che sono diventati popolari. Comunque diciamo che c'è, ovviamente quando sono usciti i CD costavano miliardi, io esatto. L'avevo già raccontato in un altro episodio dove comprai questo CD, il primo portatile, che era un trasportabile più che portatile come sempre, e che mi sembrava di aver pagato tipo 700.000 lire negli anni 80, e erano tanti soldi, 700.000 lire. Sì, erano tanti soldi. Ed era un lettore che leggeva il CD, bello, carino, piccolino, però insomma il CD insomma ha cambiato sicuramente poi tutta un'altra storia, e poi dopo andando avanti la situazione è cambiata, l'ha già raccontato Simone poco fa, che cambiò completamente ulteriormente tutto il mercato della musica e anche il modo col quale si ascolta la musica fondamentalmente, ma anche se non è fondamentalmente molto cambiato se ci pensate, perché oggi non è il Walkman ma è il cellulare. E i nostri figli sono in giro con gli auricolari al posto che le cuffiette, perché si è tutto un po' rimpicciolito, ma fondamentalmente il metodo d'ascolto è ormai rimasto, il grosso è rimasto individuale, e sì. Si è perso molto, se non quasi completamente assente, tanto più che in Italia praticamente chi vende impianti stereo casalinghi si contano sulle punte delle dita, cioè non lo trovate più da nessuna parte un impianto stereo, a cercarlo fate fatica, insomma. Pur esistendo ancora e vengono ancora prodotti, ci sono mercati, come già avevo detto, in Giappone dove è molto florido, ma in Italia se andate in qualsiasi grande magazzino, centro commerciale, quello che volete, Media World, penso che sia quasi impossibile trovare un amplificatore, una piastra di registrazione. Una no, adesso per la condivisione della musica usano quelle cassettine Bluetooth. Sì. Orrende. Diciamo che ormai l'ascolto non è più diventata, come non lo era forse già con i Walkman, una questione, forse ancora prima, non lo è più addirittura adesso, la questione qualità è diventata proprio l'ultimo. Esatto. L'ultimo degli ultimi. Sì, degli sì, assolutamente. Cioè, anche qualità. Perché no, non c'è più neanche lo stereo, cioè il concetto di stereo si è perso completamente adesso con quegli mia figlia non penso neanche che sappia cos'è lo stereo, forse perché ci sono le cuffie ancora, ecco, ma in cuffia riesce a sentire lo stereo, con quei tre piccoli Bluetooth sono quasi sempre il mono. Diciamo che mo abbiamo tantissimi modi cioè tanti strumenti per la diffusione di audio in generale, che alla fine, voglio dire, si sono un po' tutti contaminati, no? dal PC, le casse del PC, chi magari c'ha delle buone casse, oppure un televisore comunque con un buon audio. Io tante volte quando stavo in salone, che magari faccio dei lavori, vabbè, prima di averci Alexa mettevo Spotify sulla PlayStation e sentivo la musica da là, cioè nel senso è proprio, sì, diciamo che è proprio il rapporto in generale anche con la musica probabilmente che è cambiato in generale, anche se è proprio anche cambiato proprio quello che ascoltiamo, perché una volta ascoltavamo prevalentemente musica, oggi ascoltiamo tante cose diverse che sono anche i podcast ad esempio, tantissimi, quindi insomma alla fine vedi che è cambiato tanto in generale, no? Non è cambiato solo la tecnologia. Una volta ascoltavamo la musica, adesso si ascolta la trap. quindi. La trappola, signore, hai detto bene. Devo fare questa battuta per far tirarmi contro le persone, perché poi c'è qualcuno che invece apprezza quella musica, quella roba. Ma sì, alla fine puoi trovare del bello in qualsiasi cosa, però è ovvio che se fai un confronto di media non è che ne esce bene, ecco. Esatto. No, no, poi magari sicuramente c'è anche qualcosa di carino, oh, cioè nel senso. No, sicuramente c'è, anzi, c'è sicuramente. E anche gli Alexa stessi mi hai fatto venire in mente che sono mono pure loro, quasi tutti, non credo che sia il misterio. No, no, sono mono. Si infatti sentono... si parla di qualità audio fantastica, mono. Mono. Okay. Non suono, e poi qualità audio fantastica è sempre tutto rapportato, no? È come quando tu compri una soundbar, per esempio, una soundbar per ascoltare magari, che ne so, il videoproiettore o la televisione, per dargli un po' una profondità di suono e anche una tridimensionalità, come il surround. Cazzo, cioè, però comunque rispetto all'audio del televisore tutto ti sembra più potente, bello, capito? Cioè, quindi questo è un po' anche. Claudio ci ricorda che dice: avete ragione, 30 anni fa se non avevi un paio di casse da pavimento non eri nessuno. Adesso si ascolta la musica in mono dal cellulare. In fondo, visto che c'è la trap, ci meritiamo tutto. E ha ragione, direi, dai. Tutto sommato ci può stare. Magari c'è la trap per questo. Magari è una penitenza, no? No, non è una penitenza, però sappiate che oggi gli studi di registrazione, come allora, l'ho visto proprio su un episodio di una canale YouTube che si chiama Il Microfono, di un tizio che parla di roba audio, no? Che ci spiega che negli studi di registrazione ci sono le casse di riferimento bellissime, che si sente tutto perfetto, ma ci sono anche delle casse di merda, detto tra virgolette. Ci sono delle piccole casse che vogliono simulare un impianto stereo modesto, un registratore magari scarso. Questo parliamo di studi anni 80, no? Mm-hmm. Quindi ci sono questi monitorini piccolini, perché tu devi sentirlo bene anche dentro delle casse. Sì, guarda, questo qua mi è capitato le tantissime volte che sono, le diverse volte che sono stato in uno studio radiofonico locale, ma anche nazionale, tipo anche a Radio 24 mi è capitato di entrare una volta, e in sala regia c'era il regista che mi faceva vedere: noi ci teniamo questa merda qui, perché se si sente bene qui si sente bene dappertutto, fondamentalmente. E oggi negli studi c'è l'ascolto anche sui cellulari, cioè il brano si deve sentire bene anche nel cellulare, con l'altoparlante del cellulare, non fa cagare, però si deve sentire bene. Dobbiamo fare in modo che si senta bene anche lì, perché se si sente bene con le cassone, quelle di riferimento, con dei bei bassi, l'ascolto sul telefono magari si sente senza bassi o distorto. Devi sentirlo bene anche sul telefono. Ormai è cambiato anche il metodo con il quale si produce la musica negli studi, dove se il media ormai più diffuso è il telefonino, c'è cazzo da fare, quello lo sono d'accordo, su questo purtroppo sono d'accordo, purtroppo lo devi fare, si sente bene. Comunque l'autoradio Mini Voxon che ha postato è bellissima, l'avete vista? Sì. Ho più ricordi di quella verde che di quella rossa, però. No, non la radio, l'autoradio. Ah, quella piccina della 500, sì. Sì, è la Voxon Junior. La Voxon Junior, l'autoradio micro. Appena un po' più grossa di quell'altra che ha fatto. Esatto. Probabilmente antecedente, quella lì un po' più grossa. Questa qua più piccina è nata negli anni 80. Però è solo AM, neanche. È onde corte, 5, 7, 11, 16, mi sa che è onde corte e basta, FM. Quindi è proprio del paleolitico inferiore. Vabbè, però sai che negli anni 70, 80 si ascoltava Rai 1, Rai 2, basta, in radio. Le radio erano quelle Monte Carlo, Rai 1, Rai 2 e Capodistria. Comunque Gianluca c'ha proprio un museo. Sì, è incredibile. Casa museo. Ah, ma attenzione, la 500 che abbiamo visto non è una 500, guarda la foto di adesso, c'ha il cruscotto della 500 in casa. In casa c'ha il cruscotto montato sopra l'autoradio. È un poster, scusa, sembrava che avesse... È un poster dove c'è infilato. No, dice la riproduzione di un cruscotto, è la riproduzione di un cruscotto, non è un poster. No, se la guardi è un'immagine, mi sembra. No, non è un'immagine. Il volante è vero, secondo me. mi sembra sempre la foto, però poi ce lo dirà. Ma guardate anche a sinistra, che c'è quella un'automobilina e poi c'è l'oggetto futuristico che non si capisce che cosa è, sembra un reattore con un'antenna sopra tante altre radio. C'è proprio un museo, ragazzi, davvero. Ah, cioè adesso ci ha fatto la foto di Bisbieco, vedi, è proprio. Ok, sì, hai ragione, è un posterone. Però intanto ci fa vedere che c'ha ulteriori radio di tutti i generi. Vabbè, ragazzi, io direi che alla fine alle 23:03 abbiamo fatto un... Possiamo dire che più o meno ce la siamo portata a casa. Se vogliamo fare delle conclusioni anche rispetto magari a cose che magari ci è sfuggito di dire ognuno singolarmente, insomma, partendo da Carlo. Che cosa? Stavo conclusione. Concludendo, grappa bocchino, etichetta nera. A posto. Okay. Questa era l'altra puntata, però. Sì, infatti, sono rimasto indietro la puntata. È vero. Sono talmente sonno. Che... Allora, vai Roberto. Allora, io una cosa che voglio notare sono essenzialmente due, tirando un po' le somme. La prima è, come al solito, abbiamo parlato di 20 anni e un po' come abbiamo detto quando parliamo di computer, noi siamo stati un po' pionieri perché abbiamo visto nascere tutte le rivoluzioni, insomma, che ha avuto anche l'audio, se vogliamo, il modo di mantenere e riprodurre il suono. Quindi abbiamo visto i dischi, le cassette, i nastri, il CD e tutto quanto. Una cosa che era molto diversa rispetto al mondo che viviamo adesso è che noi eravamo anche molto affezionati agli strumenti di registrazione e riproduzione, perché almeno io andavo al CMI5, voglio dire, a fiere, a cose. Sì, certo, sì. Sì, sì. Per cui c'era anche l'amore, lo studio, quello che volete voi, per gli strumenti di riproduzione. Al giorno d'oggi ormai la musica è totalmente dematerializzata, quindi è del tutto indifferente lo strumento di riproduzione. Non credo freghi a nessuno di sapere se lo stai ascoltando con l'iPhone 9, 10 o 11 o chissà con cosa. Per cui per quanto è una cosa bella, il progresso ci piace e tutto quanto, forse si è perso questo lato di discutere con gli amici. Io ricorderò sempre alcuni che spendevano veramente dei capitali infiniti con alcune casse di materiali, sì, improbabili, cose. Sì, sì, vero. Anche chi se ora, le costruiva, voglio dire, andava molto, sì, molto alcuni se le costruivano, o le cose che si facevano arrivare dai posti più improbabili, cioè è venuta meno. Io, se ci pensate, alla fine a noi piaceva e piace ancora la musica, spero almeno, ma è venuta meno quella parte che forse, non voglio dire era maggioritaria, ma era forse per alcuni di noi era almeno uguale, della preparazione che serviva per ascoltare la musica. E quindi quando io mi chiedo che cosa è diverso, è questo. Ormai chi parla più degli stereo o di tutte queste cose? Si parla o non si parla della musica, perché sì, sì, era una parte essenziale, insomma, della... Diciamo che è vero, sicuramente, non però in tutto il mondo. Ecco, noi la stiamo generalizzando ed è più o meno così probabilmente un po' dappertutto, però ti ripeto, in Giappone invece questa cultura è ancora molto molto, cioè loro sono ancora fermi agli anni 80. Quel tipo di tecnologia, quel tipo di, cioè, questo tipo di cose là è proprio all'ordine del giorno. Cioè tu se entri in un centro commerciale normalissimo, un piano è solo di roba hi-fi, come lo era per noi negli anni 80, con tutti i dispositivi dei marchi giapponesi più famosi, Sony, Panasonic, tutti questi marchi, sì, però qua. C'è una differenza, Davide, è vero, però è una cosa che fanno perché vogliono farla, perché gli piace. Non voglio dire una cosa vintage, anche se probabilmente lo è, però è una scelta, non so se mi spiego. Per noi comunque era diverso, perché era il mondo che dovevi fare, cioè tutti abbiamo, credo, prima che venissero fuori le piastre con due cassette, abbiamo fatto la cosa che ha detto prima Simone, cioè ci siamo messi con un registratore davanti a una cassa, una delle due, di solito, una cosa schifosissima, per registrare. Sì, sì, sì. Perché faceva schifo la roba, oppure c'erano alcune stazioni radio che erano particolarmente note perché non interrompevano la musica e perché a noi piacevano, perché potevamo registrarle, soprattutto, non so, la sera, quella da discoteca, tutta questa roba qua, no? Sì, sì. Allora, è tutto quello che c'è intorno, che in grandissima parte non c'è più. Cioè, la musica rimane, speriamo rimanga per sempre. Però secondo me, e qui viene la parte di nostalgia, poi era meglio, era peggio, sai, la nostra diatriba con il buon Carlo, però tutta quella parte è venuta meno. A me la rende un pochino più triste, se ve la devo dire tutta, però noi siamo vecchi, quindi forse ci sbagliamo noi, hanno ragione. No, no, è vero, vero. Noi abbiamo nostalgia, quello è il punto che devi sempre togliere. C'è sicuro, poi io ho vissuto in una casa dove c'era uno, non ero io l'appassionato, devo dire la verità, era più mio padre, che era molto appassionato di queste cose, quindi io l'ho anche vissuta in casa, hai capito? Un conto è vederla nei negozi, vedi tutti questi impianti stereo, bellissimi, costosissimi, è un conto vederli in casa. Per me era normalità vederli sempre, però l'impianto stereo di mio padre non l'ho mai ascoltato praticamente, lo ascoltava lui. Lui aveva delle cuffie elettrostatiche che costavano non so quanto, e quando lo vedevo con quelle cuffie, che erano stranissime, si chiama Jacqueline Float, lo scrivo come nome per chi se le vuole andare a vedere, era delle cuffie, sembrava fantascientifiche, e quando lo vedevo mi veniva da ridere, però lui diceva che si sentivano benissimo. Ah, mio padre aveva anche una raccolta di CD, prima vinili e poi CD, di migliaia di CD con tutte le opere sinfoniche eseguite da tutti i direttori d'orchestra possibili, in tutte le edizioni possibili, e la stessa opera magari Sinfonia X ce l'aveva in 40 edizioni diverse e cercava come... Cioè, la sua missione era andare in un negozio di dischi e cercare qualcosa che non aveva, di fare una specie di raccolta, per poi ascoltarle, come tutti noi facciamo la raccolta delle cose, non le usiamo mai, non le guardiamo mai, per ascoltare una volta, sì, ogni tanto l'ascoltavo, però più che altro era averle, capito? Era lì. Esatto. Sì. Va bene, ragazzi, dai. Però... Scusa, Carlo, vai. No, no, così chiudiamo. Me l'ha fatta venire in mente Roberto, e sul discorso di prima che avevi detto, ma mi ha sbloccato un ricordo che io una volta volevo registrare la televisione col registratore a cassetta. Vabbè, quello che ha detto Claudio prima, che lui ci registrava drive-in, no? Per riascoltarsi. Tu invece volevo registrare il video, e allora cosa avevo fatto? Avevo preso l'antenna, il cavo RF, e l'avevo attaccato, saldato il jack dell'audio, e ero entrato con l'antenna dentro nell'ingresso microfono, avevo registrato. E poi dopo ho detto, adesso faccio il contrario, prendo il cavo dell'antenna, esco dalla presa del... E vediamo se si vede qualcosa. Allora, ovviamente non ha funzionato, però la cosa assurda che mi ricordo, e me la ricordo, però adesso non so più se è un sogno o se è vero, e chiedo a te, Davide, come esperto, se potesse essere vero, che non so come mai, ma sulla cassetta si era registrata una radio. Il suono di una radio. La vedo dura, però. Probabilmente me la sono sognata. Cioè, se era trasformata. Facile che sei riuscito a registrare l'audio della TV. Forse era, lo speravi talmente tanto che una notte ti sei sognato sta cosa. No, secondo me. Io mi ricordo che c'erano delle radio in AM che trasmettevano talmente potente che tu bastava che. Sai, quelle che si prendevano anche nel citofono. Le a Roma. Ma non solo, ma io addirittura i radioamatori, ma anche io col CD a volte entravo nei televisori da gente. Secondo me si era registrato qualcosa del genere, perché avendo attaccato l'antenna che stava sul tetto dentro nell'ingresso del registratore, probabilmente si era registrato qualcosa che trasmetteva senza esagerata. Può essere, però al momento faccio fatica a riuscire a rifare una roba del genere. Esatto. Faccio fatica a chiamare il 118 anche un po'. Vabbè. Cioè, se mi dicevi che avevi registrato Radio Maria, ti dicevo sì, può essere una radio, poteva essere Radio Maria, non mi ricordo Maria, che era o che hai registrato Maria. Direttamente Maria, anche poteva essere anche quello. anche certo. Vabbè, va ragazzi, dai. Notte. Bello, bello, bello, come al solito, sempre belle chiacchierate con questo 70-80. Io penso che la prossima settimana, se non sbaglio, stavolta dovrebbe toccare Roberto. Sei fuso anche te, eh? Hai detto 70-80. Esatto, oddio, che è un'altra roba. No, 70-80 era una trasmissione simile a questa che facevamo con Luca Casciola. Invece esatto. Guardavamo futuro. Pensate come sto, addirittura che cosa sono andato a rievocare, insomma, secondo me era tipo uno stato di trance. Infatti quando l'hai detto ho detto "bah, vabbè, non faccio finta di niente, ma non perché l'idea è nata da lì, diciamo, questa è la versione più approfondita di quello che facemmo con 70-80, insomma, quindi vuol dire che il tema ci era caro, ma probabilmente ecco con quando eravamo futuro l'abbiamo approfondito meglio. Quindi Roberto, dovrebbe stare a te, giusto? Oppure credo che tocchi a te invece, perché invece abbiamo fatto okay. La volta scorsa il buon Carlo, se non ricordo male, e quella prima io. Ok, e quindi nei prossimi giorni vi comunicherò di che cosa si parla, però io ho fatto il subbudio recentemente, eh. Vabbè, sì, prima di noi tre controlliamo. Ok, dai, vabbè, comunque per me non c'è problema perché anche questa volta, a differenza, cioè come l'altra volta che vi ho invitato, diciamo, a fare una cosa insieme, che era ovviamente la cena della vigilia, abbiamo passato la cena della vigilia, nella prossima puntata che toccherà a me, se toccherà a me, ovviamente vi porterò in un posto, andiamo insieme a fare una cosa in un giorno specifico del 1983, ok? 80 addirittura. Sì, esatto, quindi andiamo. Dobbiamo venire in pantacollant o dobbiamo venire vestiti normali? Ma vieni vestito come... che tanto non penso che tu vestivi tanto meglio, insomma. In generale, quindi... però avevi il pizzetto curato, complimenti, questo bisogna assolutamente riconoscere. Bene ragazzi, 70-80 quindi finisce qui, ci rivediamo. Eccolo ancora. L'altra ancora, 70-80 ancora. È brutta sta storia comunque, eh. Penso che sia tipo una specie di ictus in questo momento. Esatto. Vabbè, la smetti di limarti le unghie, che cazzo stai facendo, scusa? Hai ragione, sto limando un pezzo che ho stampato con la ho capito, banca, ma almeno fammi finire la trasmissione, insomma, cioè un minimo di decenza. Non pensavo che si sentisse così tanto. Quando eravamo futuro finisce qui, ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo. Vi ricordo che domani mattina dalle 7 alle 8 torna Leo Vargon con il mattino loro in podcast nella versione del venerdì, quindi farà una sorta di recensione di una serie TV, film, barra libro, quello che insomma sarà nello specifico, non mi è stato anticipato di che cosa parlerà. Sabato mattina invece vi ricordo che dalle 8:30 alle 9:30 saremo io e Michela con Disordinati Informati in crossover con Buongiorno un cazzo, ci faremo questa specie di misto. Domani sera invece alle 23 dovrebbe esserci, se tutto va bene e la tecnica ci assiste, un nuovo episodio di Runtime by Night, che è un po' che non lo facciamo, insomma, quindi lo faremo volentieri. Chi di voi poi vorrà aderire e partecipare, ovviamente è il benvenuto, perché come sapete è una trasmissione aperta per le chiacchierate notturne, che insomma è una cosa che ci piace fare, ci riporta veramente anche questo un po' negli anni 80, no? La radio di notte, insomma, che era assolutamente meravigliosa. E cosa altro dire? Niente, penso insomma che sia praticamente tutto. Vi ricordo www.rantemeradio.it, ovviamente il pulsante anche io per poter contribuire, se volete, con una donazione, una tantum su PayPal, e lì trovate le indicazioni, oppure su Patreon una donazione ricorrente, quindi fate una specie di abbonamento alla cifra che decidete e contribuite ovviamente a quelle che sono le spese di questo network. Io ringrazio e saluto. O mandate una bottiglia di limoncello al buon Simone. Buon Simone, però deve essere ghiacciata, se no non funziona. Tra l'altro si vedeva che era limoncello artigianale, perché si vedono delle cosine nere dentro. Quindi insomma. No, ma quella è un'altra cosa, poi te lo dico dopo. È roba criminale. Comunque, ringrazio Carlo Sant'Agostino. Ciao Carlo, e grazie. Alla prossima occasione, e vai a goderti la tua mostra virtuale che hai aperto questa sera. Non so neanche di che cosa sto parlando. Va bene. Ok, ne parliamo la prossima volta. Blue City, va bene. Ok. Saluto ovviamente Davide Gatti. Grazie a tutti per essere, chi ha resistito, per essere rimasto qua con noi fino adesso, e buona continuazione della serata. Esatto. Roberto Domaiuolo, ovviamente, come tutti. Ciao. Grazie a tutti e a presto. Ok, e da me Simone. Prego. Oh, no, mi parlate sopra, mi fate finire sta cazzo. Stava grattando ancora il pezzo. No, no. Mi fate chiudere sta cazzo di trasmissione. Buonanotte a tutti e vi saluto con ovviamente con quella che diventerà la sigla. Troveremo un modo per remixarla, per fare una cosa corta. Con la sigla della prossima stagione di Quando Eravamo Futuro, e che io questa sera, anche se già ve l'ho fatta sentire, ci concludo la trasmissione in modo che ho il tempo di staccare tutto e salutare anche i miei amici. Ciao, buonanotte. Grazie. Ciao. Ciao.